Vieni a scuola a trovarci, vieni a scuola a fare delle attività. A Vengo a trovarmi. scuola. Vi va bene? Vi va bene se vieni a trovarmi a Sì, scuola in sì, maggio? certo. Sì? Però, come diceva la mia nonna, per Polito, adesso andate da me. Sì, adesso torniamo a scuola. Vengo più Vieni anche con tu con noi? sì. Bisogna chiedere alla Sonia, ma non sei, credo che ti lasci oggi. Ragazzi, vi benedica, andate a scuola. Digli anche di essere bravi a scuola, dai. Dobbiamo andare. Allora, cosa vi ho detto? Di fare i Di fare i bravi. bravi. Di fare i bravi. Anche a te? Grazie Marco. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.